voglio dare in testa a chi non mi va, sì sì sì, a quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fanno ballare lasciandomi a guardare. Ah, ah, che rabbia mi fa, ah, che rabbia mi fa. Cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va, a tutti le copie che stanno appiccicate, che vogliono le luci spente e le canzoni lente. Vuoi fare e rompere il telefono, la toppererò, perché sì, tra pochi minuti mi chiamerà la mamma, il babbo ormai sta per tornare, a casa devo andare. Uffa, che voglia ne ho, no no no, che voglia ne ho. E così la nostra festa più bella sarà, e saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli, il surf e la liga.